Di Giovanni Minoli. Love, time, death. Cacciare la preda nelle strade di Cleveland, uccidere a colpi di pistola un anziano fermato a caso, filmare il tutto e poi pubblicare il video su Facebook, titolo Massacro nel giorno di Pasqua. Uno stupro di gruppo su una quindicenne di Chicago è stato visto da decine di persone in tempo reale su Facebook Live. A tutti di tornare a collegarsi alle 16 avvisando: ciò che accadrà rischia di essere molto scioccante. Lo schermo diventa nero mentre scorrono i messaggi allarmati degli utenti. È saltata giù in diretta. C'è una notizia nella notizia. Il filmato con l'intera sequenza è rimasto visibile sul social network per ore prima che venisse ritirato. Matteo Flora, fondatore e amministratore delegato The Fool, società per la reputazione online e per la tutela della reputazione di asset digitali. Ecco, quanto tempo è stato effettivamente online su Facebook il video prima del primo omicidio in diretta? Quanto tempo? I tempi, bisogna vedere come calcoliamo i tempi. È rimasto online un paio d'ore da quando è stato caricato. È rimasto online 23 minuti da quando il primo utente l'ha segnalato alla piattaforma dicendo: secondo me questa roba è qua troppo. Online non ci dovrebbe più essere. Ecco, quindi Facebook ci ha messo troppo a rimuoverlo tutto sommato. Beh, 23 minuti per avere un essere umano che controlla che cosa c'è dentro e rimuoverlo direi che non è tantissimo come tempo. Calcoliamo che non si può rimuovere qualunque cosa, sennò toglieremmo metà degli spot televisivi. Ma si può fare... Si può fare una stima di quante persone l'hanno visto, si sa? Non si può fare una stima adesso che è offline, si sa per cioè Facebook sa per certo quante persone l'hanno visto. Non deve essere un granché il numero, perché altrimenti ci sarebbero state probabilmente molte più segnalazioni. Senta, Flora, Facebook cosa si è impegnato a fare dopo queste le polemiche su questo video? Ha preso qualche decisione? Beh, ha comunque condannato il gesto, che mi sembra un ottimo punto di vista, e diceva che all'interno dei sistemi di intelligenza artificiale che stanno sviluppando probabilmente è facile riuscire ad accorgersi prima se un video contiene violenza. Ecco, cioè Facebook in realtà potrà evitare che un video come questo venga pubblicato, sta dicendo? Assolutamente no, non possiamo vietare che nessuno pubblichi nulla. No, perché stava dicendo con l'intelligenza artificiale si può immaginare di capirlo. Allora, ci sono due tempi qui. Il primo tempo è le due ore in cui nessuno ha segnalato e quindi nessuno sapeva che cosa c'era in quel filmato in Facebook. Sì. E poi i 20 minuti che ci hanno messo tra quando è stato segnalato e quando un essere umano che controlla... uno degli esseri umani che controlla centinaia di migliaia di filmati l'ha tolto. Ecco, l'obiettivo è abbattere le due ore iniziali e far suonare un campanello d'allarme e dire subito: attenzione che questo video probabilmente contiene violenza, e quindi farlo passare a un utente. Senta, per moderarlo. Dottor Flora, ma come può un algoritmo distinguere un film violento ma finto da un film invece che registra una reale violenza? E quello è il problema, non può. Potendo il tempo che possiamo ridurre è solo quello in cui ci accorgiamo che dentro c'è violenza, quindi non sarà quello che serve a un umano. Quindi sarà sempre necessaria un'intermediazione umana, diciamo. Beh, sì, almeno nel futuro che vediamo di fronte a noi, dei prossimi anni, assolutamente sì. Al massimo è possibile fare il contrario, cioè di essere sicuri che è una scena di un film, quando magari il database dei film è già caricato e quindi l'algoritmo non deve trovare chissà che cosa. Deve solo dire: sì, ok, questa è la scena di quel film che ho già lì in quel cassetto. Comunque si lascia molta responsabilità a chi gestisce queste piattaforme. Cioè Facebook potrebbe ricevere delle pressioni dai governi per rimuovere immagini di violenza durante, per esempio, una manifestazione di protesta? Sa che ha esattamente centrato il punto. Il problema è se vogliamo o non vogliamo lasciare questo potere in mano a una piattaforma. Dirò di più: in un paese diversamente democratico, in un paese sotto regime dittatoriale, tecnicamente, quando rimuove le proteste, Facebook non fa nient'altro che aderire alle leggi del paese. In quel momento è legalmente, almeno all'interno di quel paese, il dittatore di turno. Quindi consentire a Facebook di rimuovere un contenuto senza appello dipende dalle leggi nelle quali opera Facebook? Beh, diciamo che piacerebbe a Facebook, perché vorrebbe dire le leggi americane. Sfortunatamente spesso dipende dalle leggi del paese che inoltra questa richiesta, che può essere un paese differente. Certo. Senta, tornando alla storia di partenza, i suicidi, gli stupri, anche gli omicidi vengono postati, ma da chi e perché? Beh, in questo caso da uno squilibrato che voleva far vedere assolutamente che cosa andava a fare. Ce ne sono tanti, non su Facebook, ma in giro per altre piattaforme, di omicidi e di suicidi. È per ottenere una notorietà, anche solo, forse la cosa più triste sono i ragazzini che mandano in diretta il proprio suicidio. In questo caso è proprio una ricerca di fare in modo che il proprio gesto abbia un senso con un uditorio che lo constata, una sorta di pubblicità della morte. Senta, ma dalla rete in questo modo si può dire che passa un processo di normalizzazione della violenza? La normalizzazione della violenza è una di quelle cose che sta avvenendo, ci stiamo abituando a un livello di violenza e la vediamo sempre meno da combattere, è un processo pericoloso che però moltissimi in realtà, per essere onesti, stanno cercando di combattere, sia raccontando come la violenza non sia normale sulla rete, come non sia normale minacciare di morte qualcuno o insultarlo sulla rete, come non è normale nella realtà, e facendo capire che i comportamenti in rete sono in realtà gli stessi comportamenti offline. Non c'è una differenza. In un certo senso tutto diventa più accettabile, quasi normale, come se fosse tutto un film. Beh sì, è la stessa cosa che è successo con le armi da fuoco in realtà, il numero dei omicidi aumenta quando io sparo al mio nemico da centinaia di metri di distanza e non gli infilo una baionetta nel cuore vedendolo morire. Il fatto di tenere il dolore della persona che ho dall'altra parte a distanza diminuisce l'effetto che ho io un po' di empatia verso il dolore degli altri. E quindi si può dire che in rete in qualche modo siamo arrivati, almeno così sembra, a confondere la libertà di espressione con la libertà di odiare, di offendere e di proporre qualunque cosa. Sì, sfortunatamente siamo in un momento che probabilmente sarà transitorio, c'è anche da dirlo, in cui online vengono tollerati molti comportamenti che nella vita reale non vengono tollerati. Ecco. L'obiettivo sarebbe quello di fare in modo che si ritorni a fare in modo che non siano tollerati e non, come sta succedendo in alcuni contesti, che diventi normale anche nella realtà. È come far pagare o non far pagare le tasse alle over the top, in qualche modo. Cioè... Beh, sì, è un processo molto differente in realtà. No, differente ma analogo, nel senso che dove non ci sono regole, non ci sono regole. Quello è assolutamente corretto, bisogna far rispettare una serie di regole, almeno di base, un protocollo di base a cui aderire, di regole intanto, che consentano la coesistenza. E intanto bisogna farlo, prima di tutto. Intanto bisogna farlo e non è così semplice, no, perché spesso le normative non aiutano, non sono chiare e sono concepite ovviamente in un periodo diverso. Sì. Al contrario però c'è chi sta cercando di legiferare con dei testi che ovviamente sono, devo dire la verità, abbastanza inguardabili. Sì, però anche le anarchie non sempre sono la libertà. Quello assolutamente, però non è detto che una cattiva legge sia meglio che la mancanza di una legge. Sì, non è neanche detto che la mancanza di una legge sia meglio di una legge buona. Beh, assolutamente, ma credo che tutti stiano aspettando la possibilità di riuscire ad avere una legge buona. Va bene, allora fatevi promotori. Grazie. 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS. Mario, è un problema, un eterno problema del pendolo, la responsabilità, le regole e il cambiamento delle cose. Sì, trovare però il punto di equilibrio è un fatto dinamico, non può essere statico. Sì, però noi facciamo un mestiere che è quello di dare notizie e diffondere contenuti e abbiamo delle responsabilità. Secondo me bisogna tornare a questo, attribuire delle responsabilità anche ai signori che governano i social network. Poi anche perché altrimenti si arriva al Colosseo virtuale. no? I leoni e i cristiani che vengono mangiati dai leoni dentro appunto l'arena. Questo è inaccettabile, assolutamente. Io sono molto critico su questo. Cioè? È stato ridotto tutto il concetto di violenza a puro spettacolo. E c'è un libro bellissimo di Baudrillard, scritto all'indomani degli attentati delle due torri, dove diceva che la ripetizione continua della caduta delle torri, degli aerei che si conficcavano appunto sulle Twin Towers, alla fine finiva per anestetizzare il senso. Beh, certo. La comprensione. Ci si abitua a tutto. Ci si abitua a tutto e veniva quindi percepito come semplicemente uno spettacolo virtuale non reale. Certo. Così sono gli assassini di cui stiamo appunto dicendo adesso su Facebook, i video di violenza su YouTube. Cioè, è un problema di tutti i social che non hanno alcun controllo sui contenuti. Che non hanno ancora regolato. No, ecco, cioè, se noi facessimo una cosa del genere, noi finiremmo tutti dentro. Certo, non c'è dubbio. Non so se è chiaro il concetto. Per questo facevo l'esempio delle tasse pagate o non pagate. Se io accuso Minoli di una cosa che non è vera, finisco sotto processo. Certo, la certo. Gente pensa che si possa ingiuriare, insultare, certo. E addirittura offendere in maniera perfino fisica una persona, certo. E passare così tranquillamente indenni dietro questa, ecco, cosa. L'accettabile e l'inaccettabile, secondo te, Pietrangelo della Rete, è un problema simile ai giornali? O i giornali hanno almeno questo vincolo di cui parla Mario? Beh, i giornali un tempo erano e sono stati quello che la rete è oggi. Sono stati il veicolo attraverso cui l'epoca delle masse è arrivata al compimento dell'informazione. Adesso siamo in una situazione, in uno stadio ulteriore, cioè che il compimento è dell'epoca delle masse, per cui questa sorta di Babele, per riprendere l'esempio del Colosseo di Mario, io credo che ci sia anche questa immagine di una Babele totale dove ognuno esprime il proprio punto di vista, non necessariamente veicolato né dalla verità né tantomeno dagli atteggiamenti logici, ecco, né perfino etici. Però dimmi. No, dicevo, il problema è sempre lo stesso, cioè quello di chi è in grado di decidere qual è il limite tra libertà di opinione e libertà di offendere e nell'evoluzione del rapporto coi media. Purtroppo non c'è adesso né il limite né c'è la possibilità di dare un'autorità. L'esempio è quello che ognuno dietro lo schermo, dietro il display, ritiene di avere la possibilità di dire qualunque cosa. Almeno firmarsi, diciamo, ci si sente, il primo passo ci si sente firmarsi. Come di fronte alla parete dei bagni pubblici, dove ognuno nella intimità e nella possibilità di può non essere visto qualunque scrive cosa. Qualunque cosa. Dice Paola Seminara, ci scrive, dice: secondo me Facebook si avvale della collaborazione dei singoli iscritti che di volta in volta segnalano eventuali contenuti negativi. Sì, ma insomma, la maggior siamo parte di quelli che si occupano di questo sono dei disturbati che hanno il tempo di fare queste cose. Quindi, insomma, un po'. E poi un po' Facebook complicato. Ha un sistema decentrato: tu levi un contenuto da una parte, ma è ancora da un'altra. Sì. La responsabilità poi del fare le leggi è alla fine la responsabilità. Secondo politica. Me hanno ridotto il dibattito pubblico e. Questi sono la testimonianza a una cosa vergognosa. Dopodiché ognuno faccia come vuole, per carità. Io non faccia nego come la libertà. Vuole, insomma, però, complicato. Un po' di sana censura ci vuole. Sì, escono delle cose pazzesche. Perché poi c'è anche un meccanismo di mercato, un meccanismo industriale. Tutto il lavoro che viene fatto attraverso la comunicazione televisiva passa attraverso vincoli, diritti d'autore, certo. Controllo, tutto. Responsabilità. Mentre invece in rete niente. È a disposizione di qualunque cosa. In nome della libertà assoluta non si sa di cosa però. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. La psicologia di internet, tutti i miei mondi, solitudini digitali, sempre connessi, generazione hashtag, insieme ma soli, perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri. Sono alcuni dei titoli che raccontano il mondo di internet, dei social e dell'adolescenza, il luogo dove tutti approdano per assistere il più grande spettacolo del mondo, la vita degli altri. secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, su oltre 8 milioni di ragazzi di circa 18 regioni italiane, 5 adolescenti su 10 dichiarano di trascorrere dalle 3 alle 6 ore extrascolastiche con lo smartphone in mano, il 16% dalle 7 alle 10, mentre il 10% supera abbondantemente la soglia delle 10 ore. Il 95% degli adolescenti ha almeno un profilo sui social. Il primo è stato aperto intorno ai 12 anni e la maggior parte di loro arriva a gestire in parallelo 5-6 profili, insieme a 2-3 app di messaggistica istantanea. Secondo un'indagine realizzata dal Telefono Azzurro e Doxa Kids, nel 2016 il 17% dei ragazzi dichiara di non riuscire a staccarsi dallo smartphone. E uno su 5 racconta di essere afflitto da vamping, ovvero si sveglia durante la notte per controllare i messaggi e le notifiche sul proprio smartphone. Per 3 adolescenti su 10 l'umore è scandito da quanti like collezionano i loro post. Averne tanti equivale a tante approvazioni che accrescono l'autostima, la popolarità e quindi la sicurezza personale. Il 34% degli adolescenti ammette di soffrire quando non si sente apprezzato sui social. Federico Tognoni, psichiatra, fondatore e responsabile dell'ambulatorio per la dipendenza da internet del Policlinico Gemelli. Dottor Tognoni, il suo ambulatorio dal 2009 è aperto dalle 9 alle 18, ma la dipendenza da internet è a tutti gli effetti una malattia? Non direi. Internet è soprattutto un nuovo modo di pensare e di comunicare che comporta un'evoluzione più che la nascita di nuove patologie. Nel modo di pensare soprattutto, per cui dobbiamo stare attenti noi della nostra generazione a non tacciare come patologico dei fenomeni che non lo sono solo perché non li capiamo appieno. Ma chi sono le persone che si ammalano, se vogliamo usare questa parola, di più? Ma la maggior parte dei nostri utenti sono tutti ragazzi. Adolescenti che vengono da noi da 13 anni, dal 12 anni, 11 anni a 22-23, e il sintomo principale non è l'iperconnessione, che per gli adolescenti è esattamente come l'unico ossigeno respirabile, sì, per la tendenza che gli adolescenti hanno a incrementare le relazioni col proprio gruppo di pari piuttosto, certo, che quelle con gli adulti, ma è il ritiro sociale. Il ritiro sociale. Dove paradossalmente online realizzano le uniche relazioni possibili. Ma l'80% dei vostri ragazzi ho letto che sono maschi, vuol dire che le femmine hanno meno questa patologia? Allora, la domanda è interessante. Le femmine hanno di solito un altro rapporto con ogni forma di abuso e ogni forma di dipendenza, ma direi in termini, come dire, un pochino più profondi, sì, che il corrispettivo del ritiro sociale, che è un fenomeno soprattutto maschile, nelle femmine è l'anoressia. Ah, ecco. Ecco, ma di cosa si ammalano di più? Videogiochi, Facebook, di che? Si può fare una classifica? Allora, o diciamo no? Che più che una classifica, una separazione. Ci sono i ragazzi più gravi che abbandonano la scuola, che è il sintomo, l'abbandono della scuola è il sintomo, diciamo, più grave fra quelli di cui prendiamo visione, sì, usano soprattutto il gaming, perché hanno una passione sfrenata per il gaming, ma il gaming spara tutto, perché sono tutti giochi a contenuto, come dire, aggressivo, sì, gli serve per detonare l'aggressività e la rabbia che tengono dentro, sì, e che è evidente se uno li guarda negli, certo, occhi. Quindi la violenza è uno sfogo della violenza. Diciamo una cosa, che su Facebook, direttore, sì, accade questo: i ritirati sociali difficilmente vanno su Facebook, perché certo, difficilmente si espongono. Sì, sì. Il problema di Facebook è legato a ragazzi non ritirati sociali che piuttosto cadono vittime del cyberbullismo, tenendo presente che anche lì, che una vittima è tale ancor prima di incontrare il primo bullo. Senta, ho letto che l'equipe di psicologi e psicoterapeuti che lavora con lei insegna ai ragazzi ad arrossire di nuovo e a non avere paura. Cosa vuol dire? Che la rete, ogni screen digitale, fin da piccoli, è una barriera contro stimoli emotivi insopportabili. Nel senso che con la webcam non si diventa rossi. Certo. Il rossore è una forma di comunicazione fondamentale, perché appartiene al non verbale, certo, che dice molto di più di quello che possiamo dire, certo, con le parole. E soprattutto non mente mai. Guardarsi negli occhi e diventare rossi è uno sport estremo, è diventato appannaggio di chi se lo può permettere. I nostri pazienti no. Senta, dottor Tognoni, negli Stati Uniti la terapia consiste nel curare una gallina, cioè un animale ipercinetico, diverso dal computer che è immobile. Certo. Il significato è questo, che prendendosi cura di una gallina, che è un animale che non sta mai fermo, perlomeno questo accadeva certo. nel 2009 quando io ho aperto l'ambulatorio, significa investire nel corpo, muoversi. Certo. Tenete presente che il primo sintomo, il prodromo del ritiro sociale più grave è l'abbandono, il disinvestimento dallo sport, per esempio iscriversi in palestra a settembre, smettere di andarci a novembre, molto è uno degli elementi. Anticipa l'abbandono certo. scolastico. Sì. Perché si agisce solo con la testa e con il corpo no. Diciamo questo, che c'è una dissociazione mente-corpo promossa da internet che ti fa fare tante cose ma stando seduto. E voi al Gemelli come li curate invece i ragazzi? Con dei gruppi dal vivo dove devono confrontarsi per forza di cose emotivamente. Non c'è mai stata la necessità di dare farmaci, ma soprattutto abbiamo due ampi gruppi per genitori, perché abbiamo visto che prendersi cura dei genitori significa aiutare anche i ragazzi che non riescono a venire in ambulatorio. Perché appunto i genitori sono coinvolti nella terapia, perché poi il problema è anche lì. È soprattutto lì, nel senso che tutto quello che le dico ha come origine nuove forme di assenza genitoriale. Io lo dico con grande tenerezza e comprensione certo. anche da genitore. Però è un fatto. Ah sì, assolutamente, nel senso che abbiamo fornito ogni applicazione digitale, dal tablet a quant'altro, ai nostri figli, soprattutto seguendo una logica di sostituzione. Sì, sì, una volta li mettevamo davanti alla televisione per delle ore, adesso li abbiamo ancora più abbandonati. Diciamo che internet è molto più seduttivo, è molto più interattivo della televisione che ci ricordiamo. Proprio perché è interattivo, ecco. Certo. Senta, il titolo del suo libro cita infatti i genitori. Cos'è sì. che devono sapere per evitare di arrivare alla malattia del figlio? Devono occuparsene, immagino, sostanzialmente. Devono sapere, perché devono fare. Genitore, devono diciamo fare. Così, più che qualcosa da sapere, nessuno conosce i figli meglio dei propri genitori. Questa sì. non è una frase retorica, è proprio vero. Però quello che mi viene da dire è che dovrebbero ricordarsi che alle volte giocare con un figlio è una cosa che ci fa passare l'ansia. È più importante di tutto. Sì. Sì, delle volte non ce lo ricordiamo. Senta, come tutte le dipendenze, anche quella da internet, rischia di essere ripetitiva anche dopo la cura? Diciamo che le ricadute fanno parte delle dipendenze patologiche, sono dei diritti del dipendente patologico. Dobbiamo ricordarci che ogni dipendenza patologica si prende cura da qualche parte del dipendente. Senta, un tentativo di autosoluzione. Quanto prego. Dura in media la terapia? Non c'è una durata, perché io odio i tempi determinati, ma sostanzialmente meglio i tempi indeterminati, è vero. Assolutamente, in tutti i sensi. In tutti i sensi. Però soprattutto con gli adolescenti, l'adolescente è come mettere le mani nella creta fusa, in continuo divenire, e lavorarci è molto bello, ma questo avviene sempre, come dire, ai confini dei setting che proponiamo. Certo, perché quindi in definitiva bisogna aiutare a trovare un punto di equilibrio nel rapporto con un mezzo sì. che comunque sta dentro la vita di oggi e che non può essere certo escluso o abbandonato. Assolutamente no. Ecco, a questo proposito vorrei riassumere la posizione che viene da molti sms con quello di Elvio, che dice: alla fine si cerca un buon motivo per mettere la mordacchia a tutta la rete. Ecco, discutere dei problemi non è voler mettere la mordacchia, è semplicemente porsi un problema vero e cercare umilmente di trovare qualche modo per affrontarlo, perché anche se uno non vuole, il problema c'è. Quindi metti che qualcuno di questi grandi alfieri della libertà della rete si ritrovi poi il figlio vittima di cyberbullismo. Sì. Il figlio magari reagisce in maniera emotiva e magari questo figlio si toglie la vita. Succede? Discutere fa bene, fa bene la salute e fa bene la libertà vera. Nicolò da Fregene. Nicolò, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Senta, io sto seguendo la sua trasmissione sì. e ho ascoltato quello che sta dicendo con il dottor Buttafuoco. Sì. Mi pare di poter introdurre un elemento che è vicino alla mia esperienza. Dica, lei che esperienza ha? Io sono il dirigente scolastico, attenzione. Alla fine del secolo scorso la sociologia cosiddetta di avanguardia ipotizzava la scomparsa dell'infanzia con l'introduzione dei nuovi mezzi di comunicazione e di informazione, che allora si pensava che fossero i personal computer. Sì. In realtà quello che è accaduto dalla fine del Novecento ai primi del 2001 è la scomparsa della vecchiaia, perché generazione. In realtà, l'infanzia è scomparsa la vecchiaia. Perché sono gli anziani che non riescono ad accedere, non vogliono, non possono accedere a nuovi mezzi di comunicazione e di informazione. Ma piano piano imparano anche loro. No, non è così, ci sono moltissimi anziani. Non sono nativi digitali, questo è sicuro, quindi lo fanno con più fatica. Ma è la vecchiaia che è scomparsa, non l'infanzia. È che l'infanzia invece è proiettata in un mondo di adulti, i bambini sono diventati adulti e gli anziani sono costretti ad una condizione, diciamo, di vabbè, di dipende dai casi. Grazie Nicolò Pietrangelo. E no, appunto, questo intervento avvalora allora l'idea spaventosa di Rousseau, nel senso che quell'infante si è impossessato di tutto, ma senza avere gli strumenti della conoscenza e soprattutto della sapienza. Però la cosa importante, secondo me, interessante anche, che ha detto il dottor Tognoni, che dice una cosa semplice, che passare il tempo con i figli è il miglior rimedio contro l'ansia, cioè è qualcosa che produce dei comportamenti. Sulla Repubblica è stato pubblicato qualche giorno fa una lettera di un adolescente che punta il dito contro la superficialità degli adulti, che sono attenti solo ai risultati scolastici e sono indifferenti alle delusioni e ai sentimenti dei propri figli. Quando, insomma, in qualche modo si è persa il piacere di fare la classica domanda come stai per iniziare un approfondimento. Questo è vero. Sì, io la faccio veramente, però ti devo dire la verità. La reazione qualche volta è quella di dire: ma perché me lo stai chiedendo? Cioè, tu mi chiedi come stai, già c'è un problema. Sì, eh? Cioè, se io ti chiedo come stai, cosa hai fatto oggi, ogni tanto c'è la reazione, appunto, beh, ma che cosa, perché che te frega? Cosa vuoi? Cioè, c'è una allora, sono cresciuti molto di più rispetto a quando io ero bambino. Questo è il punto. Questo problema del come sono stai. Sono già adulti. Del come stai? Sì, cioè. Io sai che ho imparato a non rispondere più a chi mi chiede come stai, perché mi sono accorto che è un intercalare inutile. Tanto è vero che una volta me ne sono accorto, ho risposto effettivamente su come stavo, ma già se n'era andato via. No, in questo caso però è sui figli. Sui figli è un altro discorso. Sui figli è un altro discorso ed è ancora più complicato, perché in realtà non devi mai dire come stai, ma devi lavorare di fino per capirlo senza la domanda. Diciamoci la verità, io mi piglio un sacco di baffa. Questo è il punto fondamentale. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, andiamo in metropolitana? Andiamo. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. We had a good thing going lately. Might not have always been a fairy tale, but you know and I know that they mai. E c'erano i destini di tutti in metropolitana oggi, tutti inteneriti dalla luce tenue del mattino, tutti pieni di domande e di esili risposte perfette per farne sciarpe e darsi calore in una primavera tutta di freddo e vento. Ha chiamato Diana Cacciatrice, ha chiesto questo brano per chi sa lei, non ha voluto dirlo, con una dedica. Ma non sarebbe il caso di fare un bagno caldo? Don't you tell me that it was meant to be. Call it quits, call it destiny. Hai fatto, Mario, un bagno caldo stamattina? Stamattina, sì. Ah, per fortuna. Alle 6. Quindi sei allineato. Col turbante in testa. No, senza turbante, anche perché in testa io non c'ho più capelli, cosa vuoi da me? Io. Ma che ci racconti oggi con la tua bolla? Torno su Grillo. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Pezzaccio di Kanye West, devo dire, Stronger. No, io volevo tornare con voi, con te Giovanni e Pietrangelo, sul tema di Beppe Grillo. Allora, ieri è stato intervistato da Avvenire, un segno sicuramente importante anche dal punto di vista politico, quantomeno di ascolto da parte dell'istituzione della Chiesa attraverso il giornale della CEI, come sapete e tutti, insomma... La CEI non è l'Osservatore Romano, eh? No, assolutamente no. Il giornale dei vescovi italiani. Il giornale dei vescovi italiani, eccetera. Ovviamente non è... questo non significa che la Chiesa non abbia posizioni multiple, di questo voglio chiedere a te. La cosa che a me ha colpito, ti devo dire la verità, è il fatto che gli avversari di Grillo, che può sembrare normale, però forse vista la situazione dovrebbe esserci un minimo di riflessione in più, a mio avviso, e di strategia politica in più. Cioè, gli avversari di Grillo hanno fatto la cosa più banale del mondo, che è quella di dire: ah, la Chiesa ha subito cambiato posizione, cambiano punti di riferimento, cambiano casacca e così via, e naturalmente poi tutta una serie di accuse al movimento di Grillo. Nessuno che si sia chiesto però perché la Chiesa invece cerca di capire, ascoltare Grillo, perché la Chiesa su alcuni temi, e la Chiesa di Francesco in particolare su alcuni temi, non tutti ovviamente, abbia un'assonanza con la piattaforma politica di Grillo. Cito solo il reddito di cittadinanza, cioè il punto chiave del loro programma, oppure la questione della chiusura della domenica. Cioè, nessuno si è interrogato sulle ragioni per cui. A me sembra che sia stata una cosa assolutamente normale, prevedibile, certo, il fatto che un giornale dei vescovi abbia intervistato Grillo, il quale ha fatto, tra l'altro, secondo me, un'intervista molto interessante, piena di stimoli. Questo non significa niente, non significa, certo, che la Chiesa è con Grillo o contro Grillo. Ci sono posizioni plurali, ma la Chiesa più plurale della Chiesa è possibile, c'hanno il Papa per tenerla unita. Invece se uno legge oggi, non dico tutti, ma gran parte dei quotidiani, viene rappresentata la Chiesa come un monolite e Grillo come una specie di mostro malefico. Forse uscito dalla foresta, conoscono poco e male la Chiesa. Un po' di manicheismo mi pare sia eccessivo in questo caso. Tu, Pietrangelo? Cosa ne dici? Pensi tu? Ti è piaciuta l'intervista di Grillo? Beh, giornalisticamente sì, straordinario. È bella, sì, sono d'accordo. Vabbè. No, ma lì, secondo me, il problema è un altro, è la sensibilità di popolo. Cioè, Bravo, sì. È il fiuto, la famosa estetica. Sono chiesa da 2000 anni, perché qualcosa anche capiscono. Comunque, non c'è dubbio che si prenotano a riempire quel vuoto lasciato dalla Democrazia Cristiana. Quello spazio se lo stanno prendendo loro. Salamino! Ma in tutto questo, Fico non sa un fico. Il presidente della commissione di vigilanza RAI parte, lancia e resta in difesa di Report, la trasmissione che fu di Milena Gabanelli, e nell'inseguire un piccione, nessuno tocchi Report e Sigfrido Ranucci, si perde ben due fave. La prima è quella per cui agli italiani staccano la corrente elettrica. Da presidente della commissione di vigilanza RAI aveva detto: se Campo Dall'Orto blocca Report, i cittadini blocchino il pagamento del canone. Nella fretta di giungere alla santa eversione, pur dallo scranno istituzionale, Fico sorvola su un dettaglio, e cioè che il canone si paga con la bolletta della luce, e se non si versa il conquibus sulla cartuccella si finisce al buio. Oh, la seconda fava dal piccion fuggito è che, giusta ortodossia, se lo svampito dall'orto resta in campo e davvero spegne Report, altro non fa il campo nell'orto che esaudire un auspicio a suo tempo professato da Beppe Grillo in persona, quando disse: non ce l'ho con i giornalisti, ma non dimentico niente, un giorno gli faremo un C così, cosa sarà questo C? Comunque disse: gli faremo un C così, cosa sarà questo C? Non lo so, questo C così gli farà, e faremo i conti con Floris e i Ballarò, ma anche con i Rodotà e la Gabanelli, quelli che si sono rivoltati contro, l'instancabile Michele Anzaldi, da sempre contrario alla RAE di campo nell'orto, ha lavorato d'archivio. Certo, poi il PD approfitta dello scivolone sui vaccini per vendicarsi sui servizi di report dedicati all'unità. Certo, ma ci fu un periodo in cui i 5 Stelle, sostenendo la candidatura di Milena Gabanelli al Quirinale, ebbero per tutta risposta, dopo il rifiuto dell'investitura, una puntata di report sui misteri del blog 5 Stelle. La domanda era: che fine fanno i proventi del blog di Grillo e quanto guadagna la Casaleggio Associati dalla pubblicità sul sito con una postilla della Gabanelli? Con 3 milioni di disoccupati smettetela di parlare di scontrini. Si scatenò l'inferno, ingiurie, minacce di querele, tutti i senatori pentastellati mobilitati e lo stesso leader che bastonò via tweet Sabina Giannini, che si era occupata di quell'inchiesta sui blog e sulle spese dei parlamentari. E ci fu pure una nota durissima, scritta con la prosa identica a quella del Partito Democratico di oggi. La nota diceva: non risulta veritiera la ricostruzione sul punto fatta da Report. Si sottolinea che dalla redazione di Report non è giunta alcuna richiesta di informazioni che sarebbe stata certamente soddisfatta in nome della trasparenza professata dal movimento. Sembra scritto proprio dal Partito Democratico. Praticamente, due mancate fave con un solo fico. Nel frattempo, che campo dall'orto va nell'orto, perché il Partito Democratico è pronto alla cacciata del direttore generale della RAI. E la domanda che mi domando resta appesa. Giovanni, a te la parola. Ma io cosa posso dire? Niente, hai fatto una ricostruzione che mi sembra perfetta. No, la domanda che mi domando, lo cacceranno? Ah, lo cacceranno, escludo. Escludo. Sono d'accordo con Giovanni. Assolutamente escludo. No, non vedo la ragione per cacciarlo. Assolutamente. È tutto il lavoro che sta facendo il povero Michele Anzaldi. Ma non è vero, non sta facendo il lavoro per cacciarlo. Lui lavora sui contenuti e critica delle cose precise. Anche questa cosa che hai tirato fuori segnala una contraddizione. Se Grillo diceva che la Gabanelli non andava bene e Fico dice bisogna far spegnere la luce a tutti gli italiani per difendere la Gabanelli, lì c'è un problema tra padre e figlio. Sì, però c'è nell'orto il campo. Certo, il campo nell'orto cammina con fatica e deve mettersi degli stivali nuovi. Però bisogna dirlo, sto povero Renzi. O Ponte di Messina ci fa lì, campo dall'orto ci fa lì. Una non è indovina. No, certo, perché se pensi Boeri all'Inps. Mario, c'è ancora una bolla? No, sì. Io vi segnalo che le elezioni francesi sono domenica. Questo lo sappiamo. Sì, ma molti non sembra, però, a giudicare almeno dal dibattito pubblico italiano, la situazione sta diventando sempre più interessante di giorno in giorno mentre si stanno serrando ormai le fila. È confermato il quadro anche nei sondaggi di ieri, gli ultimissimi proprio, un quadro di 4 candidati che corrono per l'Eliseo. E pensa, Giovanni, nello spazio, in una forchetta di appena 4 punti sono tutti questi candidati, quindi un fazzoletto di voti veramente, e con un margine d'errore di 3 punti, quindi può succedere veramente di soprattutto tutto. Dipende da quanti vanno a votare, sì, anche esatto. Lì perché sarà determinante quanti vanno, quanto sono determinati a loro volta decisi a votare. È interessante stamattina sul Figaro segnalo che Fillon, che tutti davano per morto e che giustamente tu ieri dicevi è sorprendente la resistenza di Fillon, ebbene Fillon sostiene addirittura di poter essere al secondo turno, e se accadesse sarebbe un'enorme sorpresa. Una grande sorpresa ovviamente, come sarebbe una sorpresa stratosferica in questo caso addirittura un passaggio al secondo turno turno di Mélenchon, che ha fatto un recupero. Mélenchon è un candidato della sinistra, a sinistra proprio, che ha fatto un grande recupero. Se dovesse riuscire a fare addirittura il balzo al secondo turno, sarebbe clamoroso. In ogni caso bisogna vedere chi è la vittima, perché se i due considerati outsider, Fillon e Mélenchon, passano, chi esce? Macron o Le Pen? 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Mix 24. Nell'aprile dell'anno prossimo io e Vi ci prenderemo la nostra vendetta e scaleremo la classifica della selezione naturale. Basterà imparare a fabbricare bombe ad orologeria. Ne piazzeremo a centinaia su strade, ponti, palazzi, pompe di benzina, in qualunque luogo dove possano creare caos. Sarà come la rivolta di Los Angeles o l'attentato di Oklahoma City, la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, tutto mescolato insieme. È il 20 aprile del 1999. Eric e Dylan entrano nella loro scuola superiore armati fino ai denti e sparano all'impazzata sui loro professori e sui loro compagni di scuola. Muoiono 12 studenti e un insegnante, scelti a caso. Vengono ferite 24 persone. Dopo la strage, i due ragazzi si barricano all'interno dell'istituto e si uccidono. È il massacro della Columbine High School, una strage premeditata, preparata nel dettaglio per oltre un anno. Un massacro che ha ispirato registi e scrittori e che torna in mente ogni qualvolta la violenza riesplode in una scuola in ogni parte del mondo. Frutto del delirio che si fa strada nelle menti di due ragazzi apparentemente sani, ma mossi da profondo odio. Mi avete sempre escluso dalle vostre cose più divertenti. Vi odio tutti e non venitemi a dire «è colpa tua», non è vero. Avevate tutti il mio numero e nessuno, cazzo, nessuno di voi si è mai degnato di farmi una telefonata. Episodio che suscita polemiche a non finire. Il bullismo, la depressione adolescenziale, il senso di alienazione, il rancore, ma soprattutto la sicurezza nelle scuole e la facilità di acquisto di armi negli Stati Uniti, i temi intorno cui ruota questa tragica storia di odio. Dunque, dopo il giornale radio raccontiamo il massacro di Columbine che sconvolse tutto il mondo e fu il primo di stragi che si sono ripetute un po' dappertutto. Adesso, Mario, c'hai ancora una bolla? Sì, no, segnalo che l'altro grande dibattito che è in corso e che sta accelerando, perché gli eventi lo stanno causando, è che ieri Westminster ha votato il via libera per il voto l'8 giugno nel Regno Unito. Punto focale non è se vince o no Theresa May, che è una cosa abbastanza scontata. Sì. Il problema è se il Labour sopravviverà al voto. In questo momento il dibattito inglese è focalizzato su una possibile storica, catastrofica sconfitta del Labour per più di 20 punti addirittura. Accidenti. Il che significherebbe la fine di quel partito e la sua sostituzione con qualcos'altro. Come vedete nel il panorama... Il mondo cambia. Sì, Giovanni, il mondo cambia ed è quello che dicevamo prima, off, quando non eravamo ancora in onda, e cioè lo vogliamo dire elite. Ripetilo tu, popoli. Perché qua pare elite che... contro elite popoli. Contro popoli. È così. Sempre più così, dappertutto, in ogni situazione. Bah, vedremo. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, marzo 2017, la polipillola. L'HIV, l'AIDS, l'asma e alcune forme di cefalea beneficiano di trattamenti dove in un'unica pillola si danno più farmaci. Ma la vera polipillola dovrebbe essere per le malattie cardiovascolari, perché sono la prima causa di morte e perché decine di milioni di persone al mondo hanno ipertensione, colesterolo alto e necessità di antiaggregazione con aspirinetta. Allora, una pillola che contenesse un farmaco contro l'ipertensione, uno contro il colesterolo e un po' di aspirina sarebbe la polipillola fondamentale. Si è detto che Vi è stato però finora scarso interesse da parte dell'industria farmaceutica, perché sono certo molti i pazienti che ne beneficerebbero, ma i margini di profitto sarebbero bassi. Tutto questo forse è superato, perché è stata approvata per l'America del Sud e l'Europa una polipillola con aspirinetta, Ramipril, che è un farmaco contro la pressione alta, e la atorvastatina, che è il farmaco contro il colesterolo o uno dei farmaci contro il colesterolo. Il prossimo passo, dicono gli autori, dovrebbe essere l'inclusione della polipillola nella lista dei farmaci essenziali del WHO per dare, come dire, la cornice generale a questa novità che potrebbe facilitare la compliance, cioè l'aderenza al trattamento, da parte di milioni di persone. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi vive la notte, usa un trucco deciso e ha l'animo teso come un arco. Anna Oxa, È tutto un attimo. Io che scambio l'alba col tramonto e mi sveglio tardi nei motel, sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene, dormo spesso accanto al finestrino, mi trucco il viso più deciso e vivo il tempo più vicino. È tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino. È tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore